trattato di non proliferazione nucleare è un impegno internazionale ad oggi ratificato da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, ad eccezione di India, Pakistan e Israele. Adottato dopo più di 30 anni di tentativi di limitare i pericoli dovuti alle armi nucleari attraverso una loro non proliferazione. Partita la ratifica dal 1970, in Italia fu fatta nel 75, figlia della guerra fredda e basato sulla logica dell'interruzione sia della proliferazione nucleare verticale, quindi la fine della corsa agli armamenti, sia di quella orizzontale, cioè ad impedire l'allargamento delle potenze nucleari, il trattato di non proliferazione è stato modificato due volte. Una prima volta nel 1995, non a caso dopo la caduta dell'impero sovietico, e ancora nel 2000, prima però del grande turning point del XXI secolo, l'11 settembre 2001. Quest'anno, proprio nella città martoriata l'11 settembre, New York, dal 2 al 27 maggio, presso il Palazzo di Vetro dell'ONU, si è svolta la 7ª conferenza di riesame del Trattato di non proliferazione atomica. Per sapere cosa è emerso in quella sede, ne parliamo con Giorgio Alba, che per l'Archivio del Disarmo ha seguito la conferenza newyorkese. La conclusione della conferenza prevedeva che si presentasse un documento finale. Questo documento è stato presentato, ma è privo dei contenuti, è un documento vuoto, puramente formale, nei vari ambienti governativi di tutti i paesi è assodato che questa conferenza non ha portato alla presa di decisioni, quindi ci si aspetta che queste decisioni siano prese in altre sedi. Queste sedi ovviamente sono principalmente governative, ci si aspettava una posizione positiva all'ultimo incontro dei ministri della difesa della NATO e non c'è stata, e questo è come nascondere la testa nella sabbia di fronte a un problema evidente che ci riguarda. C'è stata la positiva presa di posizione da parte del Dipartimento di Stato americano, c'è la Francia che sta modernando il proprio arsenale e che potrebbe fare molto, come ad esempio potrebbe fare la Gran Bretagna ha dei sottomarini nucleari che si stanno facendo vecchi, nei prossimi 10-15 anni sarà necessario sostituirli, e questi sottomarini nucleari sono sottomarini nucleari che sono dotati di armi nucleari e sono la base dell'arsenale nucleare del Regno Unito. Per sostituire questi sottomarini i progetti devono iniziare oggi. Blair ha dichiarato che il nuovo Parlamento ne avrebbe discusso, gli occhi del mondo sono puntati sul Parlamento britannico e sul governo britannico per vedere se veramente c'è un impegno riguardo alle armi nucleari, al terrorismo nucleare, o se verrà semplicemente riconfermata la passata politica del Regno Unito, che è una politica che risale alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che è quella di fare riferimento come ultima risorsa di difesa e come momento arma deterrente da essere pronta a scatenare attraverso i sottomarini nucleari, che è l'arma atomica della Gran Bretagna. Giorgio, il trattato di non proliferazione atomica per un periodo sembrava superato dalla caduta della cortina di ferro e dal tramontare della prospettiva di una svolta bellica nucleare. Qual è il rischio di oggi delle armi nucleari? Alla fine della guerra fredda ci si rilassò e si considerò il rischio delle armi nucleari come passato, il rischio di una guerra nucleare come passata. Perché? Perché lo si collegava alla sfida tra Unione Sovietica e Stati Uniti. Oggi abbiamo come problema principale i cambiamenti ambientali da un punto di vista e soprattutto il terrorismo internazionale. La sensibilità è quella di affrontare per prima il problema del terrorismo, sconfiggere i terroristi, e su questo ci dobbiamo trovare tutti d'accordo, e non si può accettare questa situazione. La prospettiva che riguarda le armi nucleari include il fatto che i terroristi possano utilizzare le armi nucleari soprattutto all'interno dell'Europa e degli Stati Uniti, E questo è un rischio altissimo che si concretizza di più ogni giorno che passa, per due motivi principali. Uno, perché esistono armi nucleari. Due, perché esistono centrali nucleari per la creazione di energia elettrica. Le centrali nucleari per la creazione dell'energia elettrica sono un elemento di proliferazione che non può essere controllato con nessuna misura di sicurezza, perché si sa con certezza che qualsiasi misura di sicurezza può essere aggirata. Ci possono essere persone dall'interno che evitino i sistemi di sicurezza. Riguardo alle armi nucleari, il terrorismo nucleare riguarda principalmente la Federazione Russa. Attualmente le armi presenti nella Federazione Russa sono a un livello di sicurezza e di controllo giudicato inadeguato, anche se in miglioramento. Giorgio, quali sono le armi nucleari ex sovietiche più pericolose? Principalmente sono le 3-4.000 armi nucleari tattiche nell'ex Unione Sovietica. Queste armi nucleari tattiche hanno una caratteristica: sono piccole, sono facilmente utilizzabili e il loro sistema di sicurezza, che dovrebbe impedire a persone non autorizzate di utilizzarle, è un sistema di sicurezza inferiore come garanzia rispetto ai sistemi di sicurezza dei missili, dei sottomarini o di altri sistemi di arma. Quindi potenzialmente le armi nucleari strategiche sono più sicure, anche se possono causare una distruzione immensamente maggiore rispetto a delle piccole armi nucleari tattiche. Quindi in generale le armi nucleari tattiche sono lo strumento migliore per un gruppo terrorista, perché sono facilmente trasportabili, si possono nascondere facilmente e possono causare un'enorme devastazione rispetto alla difficoltà di ottenerle. Il terrorismo nucleare sembra dunque la nuova frontiera del rischio atomico. La denuncia vede una singolare alleanza larga che comprende nei suoi estremi i movimenti pacifisti e gli organi dirigenti della NATO, che più volte si è espressa in merito. Giorgio, può essere proprio la questione del terrorismo nucleare il trade union per creare una nuova coscienza di base sul rischio della proliferazione atomica? Esiste la necessità, l'urgenza di creare e far crescere, rinforzare una base comune a livello politico per affrontare la questione delle armi nucleari. Questo cosa significa? Che anche la questione della presenza delle armi nucleari in Italia, nelle basi di Viano e Gheti, deve essere riconsiderata. Ricordo che queste armi nucleari tattiche sono presenti in vari paesi europei, recentemente sono state rimosse dalla Germania, questo a seguito delle dichiarazioni del ministro Fischer, ministro degli esteri tedesco. Sono state rimosse temporaneamente per controlli e per motivi di sicurezza. Si spera che una volta restituite all'interno del territorio americano non facciano ritorno. Questo ovviamente non è una garanzia, i programmi dicono che queste armi ritorneranno dopo un certo periodo. Perché è necessario creare questa base comune? Perché gli stessi documenti dell'Assemblea parlamentare della NATO, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti, i senatori e deputati italiani, che si riunite dal 27 al 31 maggio 2005, hanno avuto modo questa assemblea di discutere vari documenti, tra l'altro un documento che riguarda l'ex Unione Sovietica, il lascito dell'ex Unione Sovietica, proprio delle armi nucleari tattiche. E nel documento, che è reperibile in italiano sul sito del Senato, è evidenziato che non sarà possibile mettere in sicurezza queste armi nucleari e quindi continuerà a esserci il rischio di atti terroristici in Europa. Ricordiamo che anche Madrid è stato attaccato dai terroristi, oltre che New York. quindi ci sarà il rischio di terrorismo e di terrorismo nucleare fino a quando queste armi non saranno messe in sicurezza e, secondo questo documento dell'Assemblea parlamentare della NATO, non saranno messe in sicurezza fino a quando non si porterà la Russia al tavolo dei negoziati. E perché la Russia non va al tavolo dei negoziati? Perché sono presenti in Europa da parte della NATO le famose 480 armi nucleari tattiche, tra l'altro 90 sono presenti in Italia. La NATO si rifiuta di mettere in discussione questa presenza, appellandosi al fatto che rappresenta un legame transatlantico tra Unione Europea e Stati Uniti. E adesso sentiamo l'appello di Daniel Ellsberg, ex dipendente del Dipartimento di Stato americano, che nel 1971 pubblicò ben 7.000 pagine di documenti top secret sulle politiche americane in Vietnam dal 1945 al 68, che fecero molto scalpore. Daniel Ellsberg, direttamente dalla settima conferenza per il riesame del trattato di non proliferazione atomica tenutasi a New York, invita a diffondere notizie della presenza di armi nucleari statunitensi in Italia. By the same token, I would say to any Italian. Voglio dire ad ogni italiano che l'Italia ha sul suo territorio armi nucleari e chissà dovrebbe rivelare queste informazioni anche con documenti che lo dimostrino ampiamente. Non posso affermare che la loro pubblicazione sia esente da rischi, ma voglio chiaramente dire di considerare questa eventualità. Questo per liberare il proprio paese dalle armi nucleari, facendo sapere ai propri concittadini che la dislocazione di queste armi è presente e pericolosa. Per una vera discussione democratica se l'Italia deve continuare ad ospitare basi militari USA con armi nucleari è necessaria più trasparenza. Voglio dire che i paesi europei dovrebbero in realtà disarmarsi, rimuovere o far rimuovere le armi come sta già succedendo in Germania e prossimamente in Belgio. Invece in Inghilterra è più difficile che il governo risponda positivamente alle pressioni pubbliche. Infine, tutti coloro che in questi paesi sono a conoscenza di questa situazione, che sono stati obbligati al segreto e magari minacciati, queste persone dovrebbero sia chiedersi quali sono le informazioni che detengono, sia se mantenere questi segreti sia giusto o sbagliato. Potrebbero rompere questa promessa di segreto anche in via anonima. Rimane sempre il rischio che possano essere riconosciuti, ma il gioco vale la candela per evitare i rischi nucleari. Cosa dovremmo fare delle armi nucleari strategiche italiane per ridurre i rischi di un terrorismo nucleare? Lo chiediamo ancora a Giorgio Alba dell'Archivio del Disarmo. Queste armi andrebbero smantellate, andrebbero quantomeno riposizionate all'interno del territorio degli Stati Uniti, al territorio continentale degli Stati Uniti. E questo è il passo necessario per portare la Russia ai negoziati. Attualmente l'Italia sta spendendo oltre 720 milioni di euro per finanziare un programma di smantellamento di sottomarini nucleari, di armi biologiche e chimiche in Russia. Questo programma potrebbe essere esteso sia alle armi nucleari tattiche della Russia, di cui ovviamente la Russia non ha sufficienti fondi per smantellarle, e di questo ce ne potremo occupare noi europei. Riguardo alle armi nucleari tattiche americane, gli Stati Uniti hanno abbastanza scienziati e risorse per procedere a uno smantellamento, quantomeno a una messa in riserva, e questo è il primo passo per ridurre il rischio di terrorismo nucleare. Non ci sono altre misure che ci possono garantire. Finché noi terremo queste armi in giro, ci sarà il rischio che qualcuno cercherà di trafugarle e rubare il materiale. E ringraziamo dunque Giorgio Alba dell'Archivio del Disarmo. Questo speciale radiofonico in occasione della conclusione dei lavori della 7ª conferenza per il riesame del trattato di non proliferazione nucleare tenutosi a New York è stato realizzato dall'agenzia multimediale Amisnet e curato da Lorenzo Nania, che vi ringrazia dell'ascolto. Ricordandovi però che anche Amisnet inaugura una campagna di sostegno. Diciamo anche perché ormai tradizione per molti media, testate indipendenti e radio libere organizzare campagne di sostegno per autofinanziarsi. Amisnet è un'agenzia radiofonica e anche se non siamo radio, puntiamo al sostegno degli ascoltatori più affezionati. Più di 16 ore giornaliere di audio news e programmi sono scaricati dal nostro sito www.amisnet.org. 7 servizi audio approfondimento quotidiani, 6 programmi settimanali, più di 20 speciali e documentari radiofonici ogni anno su temi di maggiore rilievo da cui ascoltare le voci di chi spesso voce non ha. Il tutto gratuitamente perché crediamo che l'informazione debba circolare liberamente. Ma si sa, l'informazione libera ha dei costi, tra cui gli sforzi quotidiani per mantenerla tale. Quindi le vostre donazioni vanno inviate a Banca Popolare Etica, conto corrente 115558, intestato a AMIS, Agenzia Multimediale Informazione Sociale, ABI 5018, CAB 12100, CIN A, Casuale Campagna Supporto 2005. È possibile sostenerci direttamente online andando sul nostro sito www.amisnet.org.